tingali maari tiki kuhao loko mos marhite ulomi di panatawa si pisur nauli tarahu tolomi marjanji ho tua. Bigtang na di langit ah.